Ciao. Ecco, buonasera a tutti quanti. Un caro saluto anche dall'assessore Tomasini, che è presidente di questa biblioteca. Sulle sedie trovate un numero di un opuscolo informativo sui nostri servizi e anche una relazione di quello che è stato fatto in questi primi 10 anni dalla biblioteca Claudia Augusta, che si trova dal 2001 in questa sede provvisoria e che nel giro di qualche anno si trasferirà nel polo bibliotecario distante da questo posto solo 200 metri, ecco, insomma non cambieremo zona ma rimarremo sempre nelle vicinanze. La caratteristica di questa biblioteca è quella di occuparsi prevalentemente del territorio, ma chiaramente offriamo servizi anche per reperire documenti di altro genere, come attraverso il prestito interbibliotecario siamo collegati anche col servizio non solo locale di biblioteche ma anche quello nazionale. Quindi possiamo trovare documenti che sul territorio non ci sono e possiamo recuperarli. Un'altra cosa che facciamo è quello di favorire l'incontro con il libro e con l'autore, per cui ogni settimana nel periodo scolastico, da metà settembre a metà giugno, prevalentemente in questa sede ma a volte anche in sede di associazioni in giro per la città o per la provincia, organizziamo degli incontri con l'autore e uno di questi è appunto quello di questa sera. Con piacere vi presento e vi saluto il professor Giancarlo Mariani, che ci presenta questa sera Con amore e con disgusto, Poeti italiani contemporanei. Abbiamo preparato qui la vetrina di quello che la biblioteca ha sempre come autore, Giancarlo Mariani, i suoi libri, i contributi, mancano alcune traduzioni, non abbiamo la raccolta completa, però se avete così piacere anche di dare un'occhiata a quello che è la produzione del professor Mariani, qui abbiamo un piccolo saggio anche della sua attività. Lo ringrazio perché non è la prima volta che ci viene a trovare e quindi siamo contenti delle sue visite. L'altra volta c'era più gente. Non tutte le settimane sono favorevoli, devo dire, perché ci sono delle occasioni dove si riesce, delle altre dove purtroppo si accavallano varie presentazioni. Ma almeno lunedì sappiamo che è un buon giorno, si inizia la settimana bene. Ecco. Le cedo la parola e grazie ancora a tutti. E dunque, il titolo può suonare strano, con amore e con disgusto, ma c'è un motivo particolare, perché il libro è diviso in due parti. La prima con amore, la seconda con disgusto. La prima parla di una serie di poesie piuttosto lunghe, che ciascuna poesia è praticamente una tragedia, ambientata nei modi più particolari, più strani e così via. La seconda, con disgusto, è una serie di filastrocche dedicata a una serie di personaggi politici. Ecco. Tanto da fare filastrocche! Quindi, solo che la seconda parte contiene solo 10 filastrocche. Perché se si continuasse non basterebbe l'Enciclopedia Britannica per completare il lavoro. Ecco, comunque, vediamo. E dunque nella prima parte dovrò anche alla fine una nota a piè di lettura per spiegare alcune cose che forse non tutti possono aver presenti. Vabbè. La storia dell'amore di Cirano per la bianca anelante Rossana. Tutti conoscono questa triste storia. Questa è la storia dell'amore di Cirano per la bianca anelante Rossana, Rossana che amava gli apostrofi rose e le parole molto più di chi le avesse pronunciate, Rossana i cui occhi languidivano e il cui cuore pulsava più forte per l'amore di una voce. Cirano, quel povero, bruttissimo, glorioso spadaccino che nel suo tormento inseguiva le favole, infilzava le nuvole e scherniva i potenti e scriveva poesie. E le poesie più belle erano sempre solo per Rossana. La bianca anelante Rossana al balcone indiafaniva tutta i raggi della luna e cercava con lo sguardo parole luminose. Cirano, condannato all'eterno nascondiglio nell'angolo più scuro del giardino, laddove le spine dei rovi gli trafiggevano il cuore, raccoglieva le stille d'amore che ne sgorgavano. Con la spada tagliava segmenti dal filo della vita e confezionava collane di rubini stillanti dal cuore, con le quali un altro uomo avrebbe rubata una vita d'amore e ne inghirlandava Rossana. E gli apostrofi rosa e le parole e le poesie più sofferte fluttuavano nel buio per giungere fino al balcone. Un giorno l'uomo muto e manifesto e Cirano, poeta nascosto e tant'altri partirono tutti votati al massacro. Giunse alla bianca anelante Rossana una lettera piena d'apostrofi rosa e poesie le più belle del mondo. L'uomo muto morì, Rossana le impresse nel cuore per tutta la vita. Cirano sopravvisse, ma se stinsero la penna e la voce dovette tacere per sempre. E la bianca anelante Rossana al balcone ancor sempre sperava di udire portata dal vento la voce che tanto l'aveva ammaliata. Cirano si indebolì e si consunse nel buio del triste silenzio ed il cuore ormai privo di linfa non poteva più valere a sostenerlo e la volle vedere per l'ultima volta. Rossana lo accolse e a Cirano venne a scoppiare il cuore illuminando la bianca camicia di un rosso solare e insieme con il sangue gli eruppe dal cuore un improvviso e subito represso apostrofo rosa. Il volto di Rossana indiafanì. Cirano se ne accorse. Ti giuro, caro amore, che non t'ho amata mai. E un lampo deflagrò dentro gli occhi di Rossana, rivelando in un attimo una vita di strazio taciuto nel fluire di tante parole. E s'avvinse perdutamente a Cirano, non più parola ma uomo, con un vero e disperato apostrofo rosa. Era la prima volta che non fossero solo parole. E la vita gli uscì dalle narici, disperdendosi nel pianto senza fine della bianca anelante Rossana. C'è un'interpretazione di Rostand che spero possa essere condivisibile. Adesso invece entriamo in un campo che spesso la scuola è riuscita a farci odiare, il campo della matematica. Ed ecco infatti la storia di un amore nato dentro un'equazione. Sul pianeta della matematica sbocciano a volte nel campo infinito del caso quegli eventi che gonfiano e infiammano il cuore dei numeri. E questa è la storia dei numeri di un'equazione di secondo grado. I numeri vivevano placidamente sdraiati a bearsi sotto il sole sul pontile della linea di frazione, alcuni persino riparandosi dal sole sotto l'ampio ombrellone della radice quadrata, altri ancora preferivano starsene sotto coperta. Al di là dell'uguale lo zero cicciotto e soletto, contento della sua forma solare, mandava agli altri numeri saluti ridanciani. E tutti quei numeri, tranquilli al loro posto, sognavano insieme e facevano progetti sul destino che li attendeva, quando sarebbero stati due bei risultati, e confidavano lieti in quel loro più o meno che li avrebbe indirizzati senza alcuna esitazione alla loro futura posizione nel reticolo degli assi cartesiani. E un amore reciproco li univa nell'attesa della funzione che avrebbero determinata nel roseo quadrante del loro futuro. Ed ecco un fermento e un bisbiglio, un pigiarsi di numeri che si complimentavano fra loro. L'operazione era lì per cominciare. Momenti di gioia e di brivido, ed ecco prender forma la X con 1. Un risultato splendido e simpatico, e i numeri non ne avrebbero sognato uno migliore. A passi svelti s'avvia con tranquilla sicurezza fra le ascisse e le ordinate a raggiungere la propria posizione, laddove in un'ansia d'amore d'attesa sarebbe stato pronto ad unirsi nella funzione che avrebbe determinata con la sua X con 2. E l'attesa distante distante diventa più ansiosa e l'amore più forte. Quella funzione tanto a lungo sognata nell'ovile dell'equazione sarebbe stata la loro vita e la loro ragione. Ed X con 1 aspetta ed aspetta ed aspetta, ed ecco apparir di lontano il secondo risultato, la sua X con 2 tanto amata. Avanza senza meta a gesti folli, poi si perde nel vuoto. La sua X con 2 era un numero immaginario, ed X con 1 rimase soltanto un piccolo inutile punto nell'immenso quadrante deserto. Questo è un risultato impossibile in algebra, perciò ancora peggio. Peggio è così, non poteva andare. Questa c'è una musicale, ma io sono stonato come una bestia, quindi... Il cuore e la ragione. Ci fu un tempo che il cuore e la ragione si giurarono reciproco amore. La ragione vestì con un manto di fiori la serie infinita dei numeri e i rapporti di causa ed effetto, e fermò l'orologio dei pianeti per permettere a Venere e Marte di fondersi insieme. Gli anelli di Saturno, indiamantati dai ghiacci di Plutone, servirono a fidanzare il Sole con la Luna, e le meteore fugaci assecondarono tutti quelli che a loro apparire avessero pensato un desiderio. Gli oceani, sotto le fronde dei dirupi, porgevano orecchio al cinguettio delle stelle. E la ragione tutto questo esibì su un tappeto di ragioni come dono da mettere ai piedi del cuore. Sinfonie di profumi esalanti dal manto di fiori si diffondevano intorno alla danza d'onore eseguita dai numeri e dalle piroette istrionesche di cause ed effetti. Mai l'universo fu bello come allora. La sfera di Pascal si inghirlandava di passione, e il torrente di lava del tempo che morte consuma aveva dato freno alla corrente. Il secondo principio della termodinamica venne abrogato e l'entropia cessò di aumentare. Il cuore accettò questi doni con un cenno regale del capo ed accorsero i suoi ciambellani per portarli nelle sale del tesoro. La ragione pensava che il cuore la volesse ricambiare con un suo regalo, ma vana fu l'attesa. Il giorno successivo le giunse dal castello, portatale dal gran visir del cuore, una richiesta imperiosa di doni ancora più grandi. La ragione gettò allora nel più capace crogiolo del mondo il pensiero degli antichi e dei moderni, e i libri ermetici e le proprie dicotomie con tutti i sistemi. Con il prodotto della fusione plasmò 4 ampolle a mani nude per travasarvi anche l'ultima stilla di sangue, e le portò alla presenza del cuore. Il cuore accettò questi doni con un gesto regale del capo e i ciambellani accorsero per portarli nelle sale del tesoro. Il giorno successivo ne volle ancora ed ancora come atto dovuto alla propria maestà. La ragione si smarrì totalmente abdicando a se stessa, perché il cuore della ragione può rullare più forte di tutti i tamburi del mondo, ma non potrà mai incrinare il potere assoluto e terribile delle ragioni del cuore. Questa è dedicata ai martiri di tutte le Shoah che ci sono in giro per il mondo. Il buio della ragione e il silenzio di chi non vuol vedere. E venne anche il tempo che il buio ed il silenzio s'avvinsero d'amore vicendevole. Il silenzio dimorava sulla luna, sanguigna di infausti presagi nel mare della solitudine. Il buio incombeva con vaste spalancate ali di corvo sulla scabra silente distesa. Il silenzio non era il silenzio trepido che precede la musica e nemmeno quello assorto che la segue. Non era il silenzio degli ampi orizzonti e degli occhi loquaci, ma era quello delle grida strozzate nella gola e delle estreme parole impronunciate. Ed il buio non era il buio accogliente e discreto di certe notti assaporate in due, che concilia riposo e diffonde la pace. Non era il buio che precede la luce, ma il buio spaventoso che la segue. Era il buio che affanna il respiro ed imperla la fronte ed impedisce ai semi di germinare. Il silenzio, adagiato come una nera fanciulla nel talamo lunare, attendeva che il buio incombente nei cieli s'accostasse per congiungersi con lei. Ma la musica degli astri e la luce del sole li rendevano entrambi incompleti e non si sentivano ancora pronti appieno a realizzare il loro sogno d'amore. E sempre lo squittire luminoso delle meteore, indiscreti topolini dello spazio infinito, e il brontolio rossastro della terra, questa vecchia vicina sospettosa ed impicciona, veniva a sconvolgere il loro programma. E l'attesa era lunga e paziente, e l'amore e il desiderio ingigantivano. Una notte la luna sanguigna e la terra brontolona ed il sole lucente si misero in fila su un unico asse celeste, ed il sole fu come accecato. Il buio e il silenzio capirono che il tempo era maturo per le nozze, ed il buio calò dentro il talamo nel mare della solitudine per consumare il matrimonio con il silenzio, e sulla luna non più sanguigna si amarono e si fusero e generarono morte. Da qui il titolo Il buio della ragione e il silenzio di chi non vuol vedere. Quante volte purtroppo è successo e sta succedendo. E adesso passiamo al disgusto. Dunque, queste sono filastrocche, non sono poesie, queste disgustate, spero non disgustose. Dunque, la prima nasce da un'idea di Marino Moretti. O Poggiolini, ti rivedo ancora con quel tuo mite sguardo di fanciulla. Ecco. O Buttiglione, ti rivedo ancora con quel tuo mite sguardo di fanciulla. Chiedere un voto, un non so che, un non nulla, con una voce che non so, ma ancora. Il maestro, con quel suo gran vocione, leggeva i nostri nomi sul registro per far l'appello in tono assai sinistro. Baget, Berlusca, Bossi, Buttiglione. E qui di commozione ormai trabocco, quei giorni ahimè dell'interrogazione, ci andavi come la fucilazione, Oh, mi ricordo, sì, povero Rocco. Ma dopo ti hanno eletto deputato nella DC e poi nell'UDC. Le cose a volte stanno proprio così. Sei ben voluto, amato e rispettato. E coi vecchi compagni sempre unione. E questo sì che è veramente bello, come a scuola al momento dell'appello. Base, Berlusca, Bossi, Buttiglione. Questa qui è dedicata al senatur, dunque è lievemente sboccata, ma visto l'argomento, ecco, vediamo, lui sì che ce l'ha duro e ce li ha grossi, ovali, sosi e bene bilanciati, non come i pisellini che hanno i rossi, comunisti sfigati e debossati. Per non parlare della grande cura con cui sa impreziosire il suo linguaggio e della sua vastissima cultura, della quale sovente ama dar saggio, né va scordata la severità che ha dimostrata in più di un'occasione. Che brutte runte, neger! Quelli là va sterminati a colpi da cannone. Puoi leggere l'onestà delle sue mire in quell'occhio ispirato, serio e puro, e ti viene spontaneo di dire proprio così: la Lega ce la duro. Questa invece è dedicata a un ex sindaco del PC di Pontremoli. Il segreto d'un servo adorante. I valletti d'un tempo erano biondi, o anche mori, fior di ragazzoni, cantavano e danzavano giocondi per il divertimento dei padroni. Con quei glutei facciali rubicondi, intento alle sue squallide mansioni, oggi invece sbavante vediam bondi lumacheggiare intorno a Berlusconi. Con quel suo mite sguardo di fanciulla, anzi, ancor meglio, di seminarista o di bambino cicciotello in culla, ha un'espressione proprio che conquista. Ma vuoi vedere che dietro nulla nulla si nasconde un antico comunista? E qui evidentemente, cioè, la storia si ripete sempre in peggio. Questa è dedicata a Letizia Moratti, all'epoca dei fatti ministro della pubblica istruzione, che nel frattempo è stata sostituita da un nuovo ministro che bisognerebbe proporre per due premi Nobel, uno per la fisica ed uno per l'economia. Del resto non sarebbe il primo caso. C'è stato anche un altro esempio di doppio premio Nobel per la fisica e per la chimica, ed era anche una donna, va? E qui è intitolato Ma Letizia, perché era intitolata la Moratti. Voglio parlare qui di certi fatti che mi stanno oscurando la ragione, e credo che altri pure ne escano matti. Io parlo della dunque scritto PUB, parentesi BL, chiusa parentesi, ICA istruzione. Parlo della PUB, pubblica istruzione, insomma, mettiamola così. Sì, a scuola, ecco. Studenti e professori stupefatti, e se visto regione per regione, parlano della riforma di Moratti come la peggiore soluzione. Magari. E nei cortei, con grande accanimento, sono tutti inferociti e in frenesia, dalla Sicilia su fino a Trento. Letizia, gridano, vattene via. E adesso una domanda mi consento. Scuola pubblica o scuola sacrestia. E questa è intitolata Ai due cavalieri. Gli italiani, si sa, sono minchioni, soprattutto se ormai sono alla corda. Non sto parlando delle mie opinioni, proprio la storia ognor ce lo ricorda. Non sono fiabe, sono fatti veri, sempre pronti agli inchini e ai leccaggi. Guarda la storia, oggi come ieri, sul pavimento come scarafaggi. Un esempio evidente fra i più buoni di riverenze e di profondi inchini al cavaliere Silvio Mussoloni e al cavaliere Benito Berlusconi. È questo che non gli entra nella capa al popolo italiano poco scaltro. Ogni volta che va in malora un papa, ecco van supplicando, avanti un altro. Purtroppo succede così. Questa invece è una lettera ad un amico straniero. Tutti voi, se siete andati all'estero, quando andate all'estero, presentando, non so, un documento italiano in albergo o così via, avrete avuto un senso, diciamo, di mancata accettazione o di divertimento. A me è successo. Lettera a un amico straniero. Lieber Freund, mon ami, se vado fuori sento ghignare, voilà les italiens, e mi sento aggredire dai dolori. Italiena, ia ia, siamo ben. Non sai che abbiamo qui Fede e Liguori, che forse sono peggio di Le Pen. La vita non ha più gusti e sapori, e dall'estero il solito refrain, la solita battuta degli italiani. Ma tu non puoi sapere che cosa sia un governo così, Bossi e Schifani, Gasparri e Fini e Sirchi e così via. Ma credi, amico mio, forse domani cancelleremo questa porcheria. Speriamo. E questa è quasi finito. Se volete, se vi annoiate o vi disgustate, battete i piedi, fischiate. Vabbè. Ti stiamo divertendo. Ah, vabbè, meglio. Alternativa? Mentre i berlusconiani sorridenti al decennale stanno gridando evviva, il popolaccio triste dei perdenti pensa non c'è nessuna alternativa. Vuoi mettere Berlusconi, Bossi e Fini? Conserveranno le seggiole in eterno e noi sfruttati, timidi e cretini saremo sempre schiavi di un governo che ci sfrutta, ci prende per coglioni, che ci opprime e ci fa morire di fame. La nostra pelle vende Berlusconi e se la ride e ride, mondo infame. Ti fai male al lavoro? Fatti tuoi. Se ti porta morente all'ospedale ti dicono, se tu guarire vuoi, paga. Se no, continua a stare male. Già già, l'alternativa, no, non c'è. Dei politici, chi più ormai si fida? E noi dovremmo scegliere, vabbè. Scegliere fra la sifilide e la sida. La sida è la traduzione italiana di AIDS, sindrome da... Ecco. E questa è per il nostro migliore alleato. Portatori di pace e libertà. Questi ghiottoni per il mondo sciamano e la parola d'ordine è gnam gnam. Chi non ci sta finisce giù a Guantanamo oppur bruciato vivo nel Vietnam. Lo sapevano i negri e anche gli indiani, chi fossero i cowboy e i cotonieri. Sono fatti così gli americani, sempre gli stessi, oggi come ieri. Ed anche a Hiroshima e Nagasaki, e purtroppo lo sanno anche i bambini, quelli con la divisa color khaki furono torturatori ed assassini. E adesso le soldatessine in fiore nelle vecchie prigioni di Saddam torturano in maniera ancora peggiore e la parola d'ordine è «gnam gnam». Ma tutti quelli sono razze inferiori, rispondono. Noi lo sappiamo ben, solo noi siamo razze superiori. Firmato Silvio George Tony Le Pen. E questa, ecco, abbasso la Befana. Ahimè, non sono un enciclopedista, per esserlo mi mancano i coglioni. Non sono Forza Italico leghista e non mi chiamo Bondi né Maroni. Credevo di aver chiuso questa lista di politici furbi ed imbroglioni, ma questa è una faccenda non mai vista che adesso si propone Berlusconi. Italiani, voi lavorate poco, cercate di essere persone serie se volete beccarvi un po' di grana. Il lavoro è fatica, non è un gioco. Basta col 1° maggio, con le ferie e con quella baldracca di Befana. Ed ora son sfinito. Vadano a farsi fottere. Ho finito. Cioè, non l'ho letto tutto, sennò... Se qualcuno proprio lo vuole, forse c'è mia figlia, dove sta? Qua. Ah, eccola. Dieci cada uno con lo sconto. Sì, sì, gli altri e questi, no? Vabbè. Quindi la ringraziamo. Spero... per... che... la poesia è più impegnativa, la filastrocca, quella viene fuori come la barzelletta, cioè poesia richiede maggiore attenzione, infatti la prima parte è forse anche un po' complessa, perché nessuno è obbligato, per esempio, a sapere che cosa sia, cioè a trovare una formulazione immediata, anche semplice, del secondo principio della termodinamica. Cioè la formula, cioè la più semplice che mi possa venire in mente è che non esiste... sì. Un motore che possa produrre la stessa energia che deve consumare. E questo che cosa comporta? Un aumento di entropia. Perciò ci sono delle parti che non tornano più, cioè spariscono. Questo, secondo principio della termodinamica, infatti è la teoria della fine del mondo, in pratica. Fortunatamente poi è venuto fuori anche il terzo principio della termodinamica di Halfen, che dice tutto ciò che va perso in un ambiente viene recuperato in un altro, cioè la teoria dell'antimateria. Cioè ciò che si perde qui va a finire dall'altra parte e viceversa, è un movimento più o meno pendolare, cioè il terzo principio della termodinamica ci salva dalla fine del mondo. Speriamo che abbia ragione. 2012? Ah, adesso? Che giorno? Io lo so. Ah, non l'hanno ancora detto per... evitare il panico. Non hanno mai azzeccata l'una, grazie a Dio. Perché il 1000 non è successo niente, il 2000 neanche. Se siamo indietro. Ecco, prima dicevano 1000 non più 1000, no? Poi nel 2000 non più 12. Ci sono stato il banco. Non più 12. Ha rovinato il computer, no? Il 2000. Ecco, così imparano i computeristi. Maledetti. Ma quando succede qualcosa, io l'avevo previsto. Ah, ecco. Volevo ben dire. Anzi, a Roma dicono in un altro modo, a Trastevere. Volevo bene dire. Beh, se ne volete ancora qualcuna delle prime? Sì, dai. Va bene. Ma quelle dei politici sono finite? Sì, qui sì. Là dentro ce ne sono altre da qualche parte, vabbè. La storia dell'amore del pugnale di Toledo e dell'indomito cuore di Wanda Lucia. Questa è la storia di un cuore indomito di Wanda Lucia che s'ebbe a innamorare d'un pugnale di Toledo. Aveva molto viaggiato quel pugnale di Toledo ed era penetrato in tanti cuori incontrati per tutti i sette mari, lasciandovi solchi profondi e ferite slabrate che mostravano le contorsioni dei cuori colpiti nel vano tentativo di mettersi in salvo e fuggire. E a volte aveva pure trafitto i cuori per concedere il colpo di grazia. La lama era fusa dell'acciaio più puro, secondo la tradizione portata fin da Damasco, attraverso lo stretto di Jabal al-Tariq, in Svizzera, ai tempi opulenti degli Abd al-Rahman, la dinastia araba, no, in Spagna. E temprata nelle acque gelide delle insondabili gole del Tago. Era tagliente, perforante, decisa, inflessibile, con il destino dei cuori che si trovassero sul suo cammino. Aveva l'impugnatura ingemmata di pietre recate a Toledo da posti lontani, il granato del sangue stillante dai cuori colpiti, il rubino dei folli tramonti orientali, e dal centro il diamante paglierino del sole cocente della meseta. Il pomello era un grosso lapislazzuli del cielo del deserto afghano, filettato e trapunto di stelle. Per un gran tempo il pugnale era stato un gioiello della vasta ghirlanda di pugnali che incorniciano la luna saracena. Ed un giorno il pugnale ebbe imbattersi nel cuore indomito di Wanda Lucia ed avvertì un brivido correre lungo la lama. Mai cuore più fiero e più nobile gli era stato concesso di incontrare, e decise che sarebbe stato suo. Il cuore fu abbagliato dal nitore della lama, e il rubino, il granato e il diamante paglierino gli rimescolarono il sangue, mentre la notte del lapislazzuli afghano sembrava promettergli riposo. Pensò subito che fosse un privilegio poter essere vissuto fino allora in attesa di una fine così fulgida, e avanzò con il sorriso stampato sulla fronte, fiero come un idalgo del passato. La lama penetrò con dolce decisione, aprendo una ferita nitida e pulita, ben diversa dalle tante provocate fino allora, ed il pugnale s'empì di un orgoglio che non era lontano dall'amore, perché il cuore che lo aveva tanto amato e si era dato sorridente a lui, e vi rimase per sempre. La storia d'amore del lupo di Gubbio per la tenera Agnella Immacolata. C'era una volta un lupo che cacciava ululando la luna sui monti di Gubbio, che subì la disgrazia d'un miracolo. In passato era stato partecipe, come tutti i lupi del mondo, di scorribande cruente, correndo col branco alla volta di stalle, d'ovili e pollai, dove strappava brandelli di carne, bevendo il sangue fumante delle sue vittime. Ora viveva di bacche, germogli e sementi e dei diversi frutti della terra. Se si avvicinava alle stalle, era solo nella speranza di poter lappare una pozza di latte versato dalla secchia sul terreno. Ma il passato lo inseguiva come una muta di cani rabbiosi o come la persecuzione senza fine che accompagna la fuga dell'ebreo, o come i sassi che fischiano intorno al lebbroso, sospinto dalla fame ad avvicinarsi al villaggio. Ed un giorno nei pressi di un ovile vide una tenera agnella immacolata che lo fissò dal fondo del perlaceo umidore degli occhi, avvincendolo d'amore per sempre. Era la prediletta dei pastori, che avevano costruito soltanto per lei un grazioso stabiolo di pietre di muschio odoroso, proprio sopra una sorgente d'acqua tepida, intorno a cui cresceva l'erbetta più verde e più tenera, anche quando l'inverno tutto intorno intristiva le distese dei pascoli e illividiva i rami senza foglie. E la tenera agnella immacolata brucava l'erbetta perenne con piccoli strappi vezzosi. Il lupo miracolato, intirizzito ed affamato e rapito d'amore, girava senza posa intorno all'ovile, nell'attesa rovente d'un piccolo belato, che sapeva riconoscere senza alcuna esitazione nel mare del coro belante del greggio. E la tenera agnella immacolata continuava a brucare nel calduccio del stabiolo. Una notte di gelo mortale, in cui rabbrividivano persino le stelle cosparse nel cielo sereno, s'accostarono le orse fameliche, bramose di carne fumante. Il lupo temette per la vita dell'amata e s'avventò ringhiando la gola dell'orsa più grande. Le belve inferocite gli si lanciarono addosso e lo fecero a brani, ma dovettero fuggire perché il chiasso aveva già risvegliato i pastori. Il lupo restò a terra dilaniato, a infiorare di rose sanguigne la neve gelata, con gli occhi morenti rivolti all'ovile. I pastori che accorsero in frotta lo finirono a bastonate e trascinarono poi la povera carcassa, portandola al cospetto dell'agnella. L'agnella rabbrividì, poi distolse lo sguardo e riprese a brucare. E nessuno poteva mai sapere se l'ultimo sguardo del lupo morente si sia mai potuto incrociare per un istante con quello indifferente della tenera agnella immacolata. Vuole ancora una? O siete stufi? No, no, non siamo ancora. No. Io devo andare, non offendetevi. È stufa. La volta che si unirono il rosso e il blu. C'erano una volta due colori, il rosso e il blu, che pian piano cominciarono ad amarsi. Il rosso bollente tripudiava della ricchezza del fuoco che avvampa e languisce e si spegne, e del sangue di chi muore per inseguire una favola, e del rame di corazze troppo tenere per resistere a spade di ferro. Era anche il colore dei papaveri e di certi tramonti inquietanti e di bandiere garrenti al vento dell'internazionale, quando ancora le sorrideva la speranza in un mondo migliore. Il rosso devastante della lava dei vulcani, che il calore del sentimento prevalente sull'ira trasforma in terra feconda di frutti e di fiori. Il blu olimpico di vaste distanze radunava in se stesso gli oceani di cieli e il riposo e gli spazi trovati e perduti e la paura blu, colore di pace profonda e d'insieme, di fremito, di movimenti stellari e di cristalli dell'acido prussico e di temperature selvagge a fusioni troppo alte per la terra. Ed ancora era suo il clamore della genziana e il sussurro del fiordaliso, e sua l'essenza della vita che il rosso insemina, e sue ancora le strade che portano al nulla. E il rosso e il blu cominciarono a fondersi sulle linee di demarcazione tra il giorno e la notte e sulle fasce pulviscolari di innumeri stelle, nel punto immenso in cui la Via Lattea si biforca per offrirsi all'amante infinito ed ignoto. E si fusero ancora ed ancora sopra le tavolozze dei pittori, che partoriscono segreti che ognuno ha già dentro di sé e che per tutta la vita lo avvincono. E si abbracciarono in folle trasporto d'amore e si coprirono. Ne venne a scaturire una triste, sconfinata macchia viola deforme colore di lutto e sventura. Il rosso che amava il suo blu più di ogni cosa al mondo decise allora con tutte le forze di scolorirsi. Voleva restituire la vita e l'olimpica varietà d'orizzonti al colore adorato. Versò allora tutto il sangue di chi ama le favole e ammainò le bandiere di quelli che inseguivano un mondo migliore. Ed il rosso svanì lentamente nel nulla, mentre il blu risplendette di nuovo nel pigro indifferente trionfo del suo colore. Spero che non vi siate pentiti di essere venuti. È stata una bella serata briosa e... Bella briosa. Grazie.